Italia in controluce. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Oggi, 27 gennaio, è il giorno della memoria per ricordare le vittime della Shoah. Scuola in controluce ci propone le testimonianze di alcuni studenti che hanno visitato Auschwitz. La parola a Maria Piera Ceci. Scuola in controluce. In arrivo dalle scuole di tutta Italia, 150 studenti sono stati in questi giorni ad Auschwitz. Un viaggio molto duro per loro, che li ha cambiati e li ha fatti crescere, come si sente anche dalle loro parole. Ci siamo fatti raccontare la loro esperienza da ragazzi del liceo Newton di Roma. Cominciamo da Andrea Pesce, 17 anni. Inizialmente ho pensato una cosa che devo fare, che devo affrontare, visto che poi devo studiare quella storia. Però dall'altra parte avevo veramente paura di ciò che provavo, e poi una paura che è stata confermata, perché quando si arriva lì e si vede tutte queste, proprio lì definire magazzini dove si tenevano queste persone, e soprattutto essere a conoscenza del fatto che lì sono morti 1.100.000 persone, si sente qualcosa di veramente terribile che non so se consiglierei a tutti di provare. Ci torneresti? A breve no. Sembra quasi che un po' tu ti sia pentito quasi, no? Forse l'emozione è stata troppo forte. L'emozione è stata forte, però pentito non credo sia la definizione esatta. Diciamo che sono stato provato da questa cosa, cioè sono entrato lì in un modo e non sono uscito completamente differente, perché magari tutte le persone possono dire come può una cosa del genere cambiare una persona, invece... Le posso assicurare che è una cosa che almeno forse una volta nella vita va provata. È come se tu fossi cresciuto tutto in un colpo. Esattamente, proprio questo. Lo consiglieresti ad altri tuoi coetanei? Consiglierei questo viaggio ad altri miei coetanei che un minimo conoscono la storia, perché purtroppo molte persone adesso, soprattutto i miei coetanei, tendono a dimenticare o a preferire di non conoscere queste cose. Alessia Provenzano invece 18 anni e frequenta l'ultimo anno del liceo. Appena siamo arrivati, senz'altro mi ha colpito il fatto che al di fuori del cancello faceva freddo, sì, però appena siamo entrati ha iniziato a nevicare, quasi che fosse un presagio di quello che stavamo andando a vedere. Mi ha colpito la desolazione, mi hanno colpito tutte le macerie, la ferrovia... Il punto di arrivo dove arrivavano tutti gli ebrei quando scendevano dal treno, e poi per ogni luogo dove ci fermavamo c'erano i sopravvissuti, le testimonianze che raccontavano la loro esperienza, e io ho provato a immedesimarmi e a provare, a cercare anche una piccola parte, cioè una, un pochino provare quello che hanno provato loro, e sono stata malissimo soltanto all'idea. Eravate stati preparati un po' a questo momento, perché insomma è dura? Sì, perché anch'io qui prima sapevo in grandi linee cosa era successo leggendolo sui libri di storia, ma era comunque un racconto freddo e distaccato. Andare lì sul posto dove sono avvenute quelle cose, affrontare la dura realtà, essere catapultati lì da un giorno all'altro, un giorno sto a Roma, il giorno dopo sto ad Auschwitz, è una cosa incredibile. Che cosa hai raccontato ai tuoi amici, ai tuoi coetanei quando sei tornata? Se sei riuscita a raccontare qualcosa? Ho provato a raccontare, ma... è molto difficile spiegarli, fargli capire. Gli ho fatto vedere le foto, però ovviamente forse non riescono a provare quello che ho provato io. Gli ho raccontato delle macerie, del fatto dei capelli, degli occhiali, dei vestiti, delle scarpe. Gli ho provato a raccontare questo, gli ho fatto vedere le foto di tutte le scarpe che c'erano, per fargli capire quante persone sono state uccise lì, perché comunque uno pensa a 6 milioni di persone, sì, sono tantissime, però poi quando vedi effettivamente tutte quelle scarpe che c'erano, tutti quegli occhiali, allora ti rendi veramente conto di tutte le persone che sono morte così. L'ha fatto per curiosità Pompeo, 18 anni, che l'ha pagata cara la sua curiosità. Sì, però è stata molto utile, e devo dire che sono contento di aver fatto questa esperienza, perché molte volte non pensiamo alle cose che sono accadute, oppure pensiamo con leggerezza a queste cose, quindi sicuramente in questo modo mi sono reso consapevole di cosa è accaduto. Qual è l'immagine, il momento che per te è risultato più difficile da affrontare lì? Quando siamo stati ad Auschwitz abbiamo visto dei corridoi pieni di scarpe, e associare tutte quelle scarpe a delle persone è stato pesante. Poi abbiamo visto anche una bambola con la testa tagliata, e pensare che una bambina gli fosse stata strappata quella bambola e fosse stata uccisa è stata una brutta immagine. Ai tuoi coetanei consigli questa esperienza o bisogna essere in qualche modo preparati? Sicuramente bisogna essere preparati dal punto di vista storico degli avvenimenti, però la consiglio, sì, consiglio di fare questo viaggio, perché sicuramente come bagaglio culturale e storico lo arricchisce molto. Ancora più difficile il viaggio ad Auschwitz è stato per Manuel Rosenberg, ebreo, 17 anni. Ci ho riflettuto i primi due giorni e infine ho deciso di andarci, perché credo che in un certo senso sia necessario appunto rendersi conto pienamente di quanta crudeltà ci fosse in quel luogo, in quel tempo, e prendere pienamente coscienza per evitare che ciò possa riaccadere. Non avevi paura di affrontare questo momento? Sì, l'ho avuta prima, l'ho avuta anche durante, però credo che sia stata un'esperienza, diciamo, necessaria e davvero formativa per me. I tuoi familiari cosa ti hanno detto? Cioè, ti hanno spinto a fare questo passo? Perché per te comunque ha un significato diverso che per gli altri. Sì. Ti hanno spinto a fare questo passo oppure avevano paura per te, volevano in qualche modo anche un po' forse proteggerti? Sì, mia madre aveva un po' di non timore, diciamo così, e quindi mi aveva detto anche pensaci bene prima di andare, perché non è una gita di vacanza. E ne ho parlato bene con entrambi, anche con mio padre, però poi ho scelto appunto di andare e sono contento di aver assistito a tutto ciò. Qual è il ricordo che porterai sempre nel tuo cuore, nella tua mente? Tutte le scarpe, i capelli, le ventole, tutti gli oggetti, le borse delle persone deportate, e mi ricorderò sempre che nel momento in cui vedevo queste immagini sottofondo nella radiolina con cui appunto ci parlavano le guide, si parlava degli esperimenti e di come fecero i primi test con il gas, e di come tennero per 48 ore persone chiuse in una camera a gas, non conoscendo ancora il giusto dosaggio, e le fecero soffrire in un modo atroce. Ad accompagnare gli studenti del liceo Newton di Roma, il preside Mario Rusconi. Ho visto la serietà proprio, quello che mi ha colpito, non c'erano quelle manifestazioni che purtroppo sono state molto indotte dalla televisione, l'applauso. Ad Auschwitz e a Birkenau io ho visto che il lutto era un lutto vero. Rusconi, quanto è importante che la scuola faccia fare ai ragazzi esperienze di questo genere? Ma guardi, è fondamentale, perché io vedo che come un torrente carsico ogni tanto rivengono a galla una serie di impostazioni di una crudeltà unica. Io ho sentito anche persone, anche nel liceo da me diretto, ci sono su 1200 alunni alcuni negazionisti, e quello che colpisce è proprio il velo di piombo che hanno di fronte alla mente, per cui proprio sono determinati a non capire, per cui la scuola deve fare proprio un'opera di convinzione diffusa, perché quando poi si diventa adulti è difficile smantellare delle impostazioni di pregiudizio così forti come l'antisemitismo, il negazionismo e così via. E vi ricordiamo che è aperta una raccolta fondi per la costruzione del memoriale della Shoah nella stazione di Milano, nei pressi del binario 21. Dal 43 al 45 questo fu il luogo in cui centinaia di deportati furono caricati su vagoni merci. La costruzione del memoriale è stata interrotta nel dicembre del 2010 per mancanza di fondi. Per tutte le informazioni www.memorialeshoah.it. Italia in controluce torna lunedì mattina alle 6.30.